genio mio lo vede e lui sen ride e prendendo il mio duol al scherno gioco sempre più da tormento al mio gran foco. Se io pennasse sospirare in acqua che grocco, che grosso.